pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che porrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Ogni mattina apro gli occhi e mi guardo attorno, pronto a vivere un nuovo giorno, come primo piatto con contorno, ma a me sembra un ritorno, lavorato come un pezzo al tornio, da burattinè che tirano i fili del mondo, senza rancore finiremo in bicolore, niente applausi con calore, perché se c'è un attore c'è sempre uno spettatore, che ti sta osservando dal profondo del cuore, il triangolo è il fungo e noi piccole spore, ci stiamo intossicando, condannati ad essere osservati, dagli occhi dei più grandi, degli illuminati, forse hai ragione tu, messaggi subliminali, in qui non cado più, malati terminali, moralmente giù, finiremo come i programmi della TV, pillola rossa o pillola blu, scegli tu, questo l'ho già vissuto, in my mind is coming back a déjà vu. Ascolta, preso di mira un'altra volta, laser sulla testa, inizia la rivolta. Io lo percepisco ogni cosa che faccio sul momento, il tuo suono è estinto, puoi chiamarlo fallimento. La storia non si cambia, fottutamente uguale, sarà la situazione di questo stato mentale. Niente da produrre e cambiare, fatti meno pare, tra il dire e il fare c'è di mezzo l'improvvisare. Per calpestare una nazione in segno di protesta, conseguenze uguali, la situa un po' mi stressa. Decidi cosa fare se non sai cosa c'è dietro, schiavo del sistema che va avanti e torna indietro. Se hai rivisto queste parti ormai sei fuori pista, hai un déjà vu in testa, chiama un esorcista. Siete tutti falsi, nessuno escluso, perché il rapper che ha da farsi è sempre stato il più diffuso. Déjà vu, siete zero, mai tutto più, stanchi del déjà vu. Déjà vu, things ain't nothing new. Siamo zero e non mi conoscete, aspettate questo pezzo e il mio nome lo saprete, su questo getto di frasi che capirete, la mia storia taglia come la lama di un macete. Volete fare i rapper mitici, criticando artisti commerciali soltanto per fare i critici. Siete finti esperti ridicoli, il vostro schema è inguardabile come il naso di Ibrahimovic. Vi paragoniamo pure ai calciatori, perché dopo un tiro in rete vi sentite già campioni. Siete identici, moralmente ho detto, underground finti e finti tutti i ragazzi del ghetto. Ho preso la pillola rossa per entrare nella realtà di questo popolo, colpito da una scossa, tra gente che brilla brillante, tende ad andarsene, autoparlante stimolante per chi istiga a fregarsene. Déjà vu, siete zero, mai tutto più, stanchi del déjà vu. Déjà vu, things ain't nothing new. My thing is for me to know that you didn't get trapped in. Déjà vu, siete zero, mai tutto più, stanchi del déjà vu. Déjà vu, things ain't nothing new. My thing is for me to know that.